Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Buongiorno a voi e benvenuti. Sabato è arrivato il nostro appuntamento per parlare di noi e dei nostri ragazzi. In regia abbiamo Giacomo Spunta, in assistenza e redazione Gigi Borghi e il mio vicino di inquilino è lontano oggi. Alberto, ciao! Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi un tema che per molte famiglie è un problema e ha cambiato molte delle abitudini, molte dei discorsi e anche un po' il clima familiare. Vuoi lanciarlo tu? Ma sì, credo, lo abbiamo tra l'altro sentito proprio dal GR alcuni minuti fa, c'è apparentemente oppure realmente questa epidemia di violenza, in particolare violenza sessuale, che ha spesso visto protagoniste, ragazze, adolescenti, insomma le nostre figlie, e questo probabilmente ha modificato l'atteggiamento, la modalità con cui i genitori lasciano uscire i figli al sabato sera, le figlie in modo particolare. Per cui direi che lo spunto per la puntata di oggi ce lo dà la cronaca e contemporaneamente l'idea è quella di proviamo a metterci tutti insieme noi genitori e capire se dobbiamo solo aver paura, se ci sono cose che possiamo fare e soprattutto come possiamo rendere più forti le nostre figlie nel momento in cui escono di casa. In linea con noi abbiamo la professoressa Patrizia Romito, associato di psicologia sociale all'Università di Trieste, autrice di molti libri e molti studi sulla violenza di genere. Professoressa, davvero buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Professoressa, davvero questo clima di paura sta trasformando e sta modificando proprio le relazioni, anche il, così, questa confidenza, questa fiducia che i genitori hanno nei loro figli? Allora, lei ha detto molto bene, lei ha detto questo clima di paura sta modificando, può modificare relazioni tra genitori e figli. Allora, distinguiamo tra il clima di paura e quello che realmente succede, il rischio di violenza sessuale che le ragazze possono correre. Le ragazze corrono un rischio di violenza sessuale, lo sappiamo, ma io dubito fortemente che questo rischio sia aumentato in maniera considerevole negli ultimi mesi o negli ultimi anni. C'è un clima di paura, devo dire molto, molto sollecitato dai media che danno molto spazio a degli episodi terribili, tragici, di stupri avvenuti anche a opera di immigrati, trascurando la violenza sessuale, la violenza anche non solo sessuale, tra l'altro, che le ragazzine e le ragazze e anche le donne subiscono e subiscono purtroppo storicamente, su cui non credo che ci sia una grande differenza tra oggi e 5 anni fa. Oggi se ne parla di più, sicuramente, però si parla di più di alcuni casi, no? Quindi i casi, gli stupri a opera di sconosciuti, di questo si parla moltissimo. E si parla molto meno delle violenze sessuali che avvengono a opera di ragazzi o di uomini che le ragazze conoscono bene. Questo è molto grave. Si crea un clima di paura, ma spostato solo su alcuni avvenimenti che non sono i più frequenti. Certo, è più facile forse evidenziare un nemico fuori di casa per certo, poter scaricare un po' le nostre tensioni e per dare un volto. Sicuramente, è molto più facile, però è molto pericoloso prendere questa strada di facilità perché non lavoriamo su quelli che sono i problemi invece centrali. Ne parleremo nel corso della trasmissione, se volete parlarne con noi 800 24 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Alberto, la professoressa Romito ha dato tanti spunti. Sì, direi che per noi genitori l'idea adesso è questa, cioè nella relazione con un figlio vogliamo investire più sul senso di fiducia, senso di sicurezza, senso di autodeterminazione, e a quel punto i messaggi educativi che lanciamo a loro saranno ben definiti, oppure puntiamo di più sul rischio reale, rischio relativo, rischio percepito, paura, ansia, e a quel punto tutte le volte che escono di casa noi staremo in ansia, allora dovremo dare messaggi continui di allerta. Allora, voi come genitori come vi sentite? Siete particolarmente minacciati da questo clima? Quali precauzioni avete preso? Magari se ne avete prese, come avete parlato con i vostri figli? Il nostro numero verde è a vostra disposizione. Andrei a sentire, Alberto, se tu sei d'accordo, la mail che è arrivata in redazione, che da cui noi prenderemo spunto per fare una riflessione comune. Sentiamo. Violenza sessuale. Se ne parla, anzi, se ne urla ogni giorno dai giornali. E per noi, genitori di due figli adolescenti, questo clima di paura e terrore significa stare con il cuore in gola ogni sabato sera quando escono. Non so se è il clima di terrore che ormai si vive nelle grandi città, ma ultimamente io e mia moglie abbiamo aumentato le strategie con cui teniamo sotto controllo le nostre ragazze in libera uscita al sabato sera. Chiamiamo ogni 45 minuti sui loro cellulari. E se non siamo certi di chi le accompagna a casa, le andiamo a prendere noi. È che ora le nostre ragazze cominciano ad essere un po' insofferenti del nostro controllo. E quella che è la loro libera uscita, adesso loro la chiamano uscita da recluse. Insomma, quando sono in giro, loro vorrebbero sentirsi libere. Ma noi siamo tranquilli solo se le abbiamo sotto controllo. Stiamo sbagliando? E come si fa a uscire da questa morsa di terrore? Gli altri genitori come se la stanno passando con le loro figlie adolescenti? Voi come ve la state passando? 824 0024. Un commento a questa mail dalla professoressa Romito e una da Alberto Pellai. Professoressa Romito. Ma che dire, capisco sia i genitori che le ragazze. Capisco la preoccupazione dei genitori e capisco anche l'insofferenza delle ragazze. Essere chiamate ogni 45 minuti sì, è davvero pesante. C'è da buttare via il cellulare. Non credo che sia molto utile. Andare a prendere le ragazze in discoteca può essere una scelta sensata. Diciamo che non bisogna farsi influenzare dal clima di paura che è stato creato negli ultimi mesi. Questo è veramente un clima che non corrisponde alla realtà. C'è però un problema reale di rapporti tra maschi e femmine, di gestione della sessualità poco meditata e anche di mancanza di dialogo tra genitori e figli e figlie, che è alla base di tutto. Io vorrei spostare di un filino la discussione, proprio per non concentrarci su questo clima di paura e gli stupri avvenuti a opera di sconosciuti, eccetera. Tornando sulla questione della discoteca, di cosa fanno ragazzi e ragazze. Ragazzi e ragazze bevono molto in discoteca, soprattutto i maschi, consumano molte droghe, questo ormai lo sappiamo da tutte le ricerche a disposizione. Ci sono incidenti molto gravi in automobile dopo le serate in discoteca. Allora, senza concentrarsi esclusivamente sulla paura dello stupro, facciamo un discorso coi figli più ampio, cerchiamo di capire, no, cosa fanno, come si comportano, e se vogliamo rispondere alle preoccupazioni delle madri e delle ragazze, per esempio è molto pericoloso andare in macchina con un ragazzo che ha bevuto molto. Allora, questo ci porta, in realtà è lo stesso discorso che possiamo fare sulla prevenzione dei comportamenti a rischio per la violenza sessuale. Ragazze e ragazze fanno tutta una serie di cose, hanno tutta una serie di comportamenti a rischio, anche perché c'è una pressione da parte dei pari, da parte del gruppo, no? Quindi bere, consumare droghe, utilizzare l'automobile in queste condizioni, sono cose che devono farci li mettono a rischio e devono farci ugualmente paura. Esatto. Professoressa Romito. E lì veramente, cioè, il dialogo preventivo è l'unica cosa, è anche un messaggio di fiducia alle ragazze e ai ragazzi, è qualcosa che può servire come prevenzione ad ampio raggio. Spesso, professoressa Romito, paura, certo, credo che non andiamo molto. Professoressa Romito, Alberto Pellai, spesso i genitori non riescono a trovare le parole, la paura è tanta e si mandano dei messaggi e delle immagini che poi sortiscono un effetto che non è quello che servirebbe invece a tutelare i ragazzi. Siamo tornati insieme, Alberto. La professoressa Romito sottolineava anche che ci sono tante altre cose di cui avere paura e tanti messaggi preventivi da passare ai nostri ragazzi. Allora, direi tre aspetti su cui penso valga la pena ragionare, riflettere insieme. Uno, è chiaro che quando un figlio entra nell'adolescenza si mette ad esplorare territori che non sono sotto lo sguardo e il controllo di un genitore. È chiaro che un genitore avrà un'ansia ogni volta che non può vedere, capire, sapere dov'è suo figlio, e questo però non può fare di noi dei genitori con la sindrome da webcam. Per cui, secondo me, effettivamente nella lettera questo continuo chiamare le figlie per sapere dove sono e cosa fanno significa invadere dei territori che devono diventare loro spazi. Il secondo pensiero che deve fare un genitore è: devo costruire una competenza dentro i miei figli affinché quando si trovano nei loro territori sappiano gestire in modo autoprotetto, sappiano davvero autoproteggersi, sappiano percepire dov'è il rischio, sappiano affrontarlo, sappiano gestirlo. E la terza riflessione è che moltissime volte la cronaca ci lancia, soprattutto anche in relazione alla violenza sessuale, il cosiddetto attacco del branco, ma i nostri figli normalmente si muovono in un gruppo. Il gruppo può trasformarsi in branco, ma prima di diventare branco il gruppo può essere invece un gruppo che protegge e non un gruppo che attacca. Allora, di nuovo, c'è davvero uno spazio educativo molto forte e molto potente negli adulti, nei genitori e negli educatori, perché possono accompagnare progressivamente un figlio a staccarsi da loro e entrare in un gruppo e far sì che il figlio sia attore del sistema autoprotettivo del gruppo nel quale si trova a muoversi. Per cui queste cose vanno monitorate, lo abbiamo detto tante volte in trasmissione. C'è la prima adolescenza, la seconda adolescenza e la terza adolescenza. Tra i 14 e i 16 anni i figli dovrebbero fare piccole esplorazioni con un forte monitoraggio dei genitori, poi progressivamente, costruita la relazione di fiducia, dovrebbero potersi muovere con tranquillità, libertà e sufficiente fiducia, perché i genitori sanno dove sono, con chi vanno, cosa fanno e come fanno quelle cose. Certo, è un po', sono come delle lezioni di volo, Alberto. Sì, e chiaramente poi adesso nella mente di un genitore c'è anche che la città, i luoghi di vita sono diventati davvero molto pericolosi, per cui chiedono più controlli, più polizia, più ronde. Però di nuovo mi viene da dire, nella logica anche della nostra trasmissione, che noi siamo quella città, noi siamo quella comunità. Per crescere un figlio ci vuole un villaggio, noi siamo quel villaggio. Se noi continuiamo a aumentare solo la richiesta di più controlli, più punizioni e più sanzioni, automaticamente diamo a tutti quelli che si muovono in quella città la percezione che abitiamo luoghi molto pericolosi. Andiamo in una bella città, andiamo a Lucca, ci chiama Renata all'824 0024, poi subito dopo ritorniamo a Milano con Luigi. Renata, buongiorno. Buongiorno, sono perfettamente d'accordo con l'ultima considerazione di Alberto Pellai. Comunque, ho telefonato per segnalarvi un'iniziativa che è partita dalla Polizia Municipale di Lucca. È un corso di autodifesa per donne. Sì. L'anno scorso, nel 2008, c'è stata già la seconda edizione e ci sono lunghe liste d'attesa già per la terza. Questo corso consiste in quattro lezioni teoriche e poi, in collaborazione con una scuola di, diciamo, arti marziali, mi sembra 6 lezioni pratiche. Mia figlia ha 19 anni quest'anno, sì, quindi 18enne, mi sono accorta che né lei né le sue amiche lo prendevano tanto sul serio questo problema. E io cosa ha detto Renata? Come? E cosa le ha detto? Che messaggi le ha dato Renata? Ma sì, ma noi stiamo attenti. Poi voglio dire, Lucca è certamente non una città come Milano, però certo, i problemini ci sono. Ora, ci siamo andati insieme lei e io, ci sono state soprattutto però a questo corso donne di, diciamo, mezza età, qualche studentessa, ma di quest'età del quale parlate anche voi oggi, pochi. Poche. Grazie Renata. Professoressa Romito, lei cosa dice? Un corso di difesa personale? Diciamo in generale, per anche prendere coscienza di sé, delle proprie capacità e eventualmente difendersi se necessario. Però io vorrei fare un piccolo passo indietro. Cioè, non dobbiamo pensare che le violenze sessuali siano ineluttabili. Non c'è motivo per cui un uomo stupri o perché un ragazzo stupri. Quindi facciamo un passo indietro e rivolgiamoci ai ragazzi, rivolgiamoci ai genitori dei maschi, per esempio, e cerchiamo di capire che tipo di discorso si può fare con i ragazzi sulla loro sessualità, sul rapporto tra i generi, sul rispetto che ci deve essere, no? Non diamo per scontato che lo stupro è inevitabile. Certo, Alberto, non ragioniamo solo in termini di dare strumenti alle ragazze per difendersi. Ragioniamo anche in termini di lavoriamo con i giovani maschi, lavoriamo con i ragazzi per capire cosa hanno in mente quando pensano alla sessualità. Volevo ancora aggiungere un'informazione, perché penso che l'informazione fattuale sia necessaria, e su questo la scuola dovrebbe fare di più probabilmente di quanto faccia. Tutti i dati che abbiamo a disposizione dall'Italia, dagli altri paesi, ci dicono che circa l'80% delle violenze sessuali sulle ragazze e sulle donne sono a opera di uomini o ragazzi noti. L'idea dello stupro da sconosciuto è veramente, avviene, ma è assolutamente minoritaria. Quindi dobbiamo veramente fare un ragionamento sul quotidiano, un po' quello che diceva il dottor Pellai, sul quotidiano, sul rafforzare la coscienza di sé di ragazzi e ragazze, il ruolo del gruppo in senso positivo, quindi non un controllo, ma uno sguardo degli altri che ti aiuta a identificare le situazioni a rischio e ti protegge se necessario. Se ragioniamo solo sull'emergenza, facciamo. Andiamo poco lontano. Luigi ci chiama da Milano, buongiorno e benvenuto. 800 24 0024. Sì, buongiorno a voi e ai radioascoltatori. Noi, come genitori, premesso, noi abitiamo l'Interland di Milano, quindi abbiamo i nostri preadolescenti che ogni venerdì sera, sabato sera, si recano verso Milano, là, sì, il centro. Sì. Una sera ci siamo accorti, avendo a disposizione una taverna, che tutta la compagnia sarà riunita degli amici dei nostri figli, abbiamo scoperto che al nostro malgrado facevano uso di stupefacenti. Sì. Abbiamo fatto una terapia d'urto con tutti i genitori, convocati tutti i genitori, monitorata la situazione, abbiamo preso dei provvedimenti quali di fare della formazione ai ragazzi, dove abbiamo portato anche i nostri ragazzi tutti quanti insieme a far vedere cosa sono gli effetti dell'assunzione di stupefacenti, le macchine incidentate, perché sì, poi possono portare queste conseguenze. Quindi abbiamo fatto un'informazione ai ragazzi su quello che si va a creare usando un tipo di comportamento non idoneo. Devo dire che noi lasciamo libertà, non telefoniamo ogni volta dove siete, certo a un certo orario facciamo una telefonata per sapere se va tutto bene, e oltremodo diciamo di uscire sempre in compagnia compatti, cioè di non uscire a piccoli gruppetti, perché se anche dovesse mancare un componente, di non lasciarlo da solo con estranei. Certo. Devo dire che questo ha funzionato, Luigi? Sta funzionando benissimo, io vedo che anche i ragazzi rispondono bene a questa terapia, chiamiamola d'urto, però in collaborazione sempre con tutti gli altri genitori che ci teniamo in stretto contatto, ecco, fondamentale della compagnia dei ragazzi, sì. Mi scusi Luigi, quanti anni hanno i suoi figli? 14 e 15. Alberto, un commento prima di andare a sentire il nostro GR. Ma mi sembra veramente una testimonianza eccezionale in due direzioni, cioè eccezionale perché ci dice esattamente quale dovrebbe essere il modo di funzionare di un genitore competente, eccezionale perché credo che questo modo di pensare ai problemi dei figli purtroppo sia un'eccezione, ed è invece la direzione in cui bisogna andare, cioè per costruire una mente protettiva nei figli ci deve essere una mente protettiva condivisa dalla comunità degli adulti, e deve naturalmente passare attraverso un approccio educativo. Mi sembra che questi genitori hanno individuato un problema, hanno provato a offrire delle strategie di soluzione al problema ai loro figli, hanno messo concretamente degli strumenti a loro disposizione e gli permettono di fare prove di volo, facendo però percepire ai figli che c'è un monitoraggio attento da parte degli adulti. Io saluto la professoressa Romito che deve scappare. Professoressa Romito, grazie per essere stata a casa nostra, per esserci venuta a trovare. Grazie a voi per l'occasione. Sono d'accordo con quello che ha detto il professor Pellai e mi sembra un ottimo esempio. Ringrazio per aver ascoltato delle cose interessanti e vi saluto. Grazie professoressa Romito. Siamo tornati insieme oggi. Alberto Pellai non è in studio con me, lontano. Alberto, recuperiamo un po' i temi, i fili di questo discorso un po' difficile, devo dire, che divide anche i nostri ascoltatori. La violenza fa paura, le nostre città sembrano sempre più pericolose, è facile cadere nei luoghi comuni, Alberto? Sì, e secondo me poi l'altro aspetto è che ci sono alcuni luoghi comuni in cui è più facile cadere, perché per esempio se si pensa anche allo stupro che viene agito, alla violenza che viene agito magari da cittadini clandestini, da extracomunitari, automaticamente c'è anche un altro messaggio che può arrivare ai nostri figli, che la violenza diventa un'area della vita, una dimensione della vita più facilmente agita da specifiche persone, quindi certo, si entra poi tutto in un altro percorso. 800 24 00 24, questo è il numero per intervenire in diretta. I messaggi come sempre al 349 238 6666. Andiamo al nostro consiglio di lettura e poi diamo la linea a Mimma da Ravenna, Stefania da Prato, leggeremo alcuni messaggi. E qui in ospite ci ha raggiunto una nostra collega, mamma. Vuoi salutare, che la tua voce è inconfondibile? Buongiorno, sono Adriana Fracchia, mi fa piacere di essere stata invitata. Allora, tra poco il nostro consiglio di lettura. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop, oggi potete ricevere a casa il libro Dal branco al gruppo, manuale di giochi per la formazione di gruppi. Per ricevere questo libro a casa dovete però essere il primo ascoltatore a inviare un'email a esserebenessere@radio24.it. Naturalmente nell'email dovete mettere il titolo del libro, i recapiti e il vostro numero di telefono. In collaborazione con IBS.it. Alberto, Adriana si è accomodata nel tuo posto, bella, tranquilla, felice, perché a questa casa non è un albergo, si sta comodi. Sono molto contento che ci sia Adriana al posto mio e intervengo subito perché Adriana secondo me oggi ci serve nella doppia funzione di giornalista, cioè colei che in qualche modo comunica le notizie, e proprio nel recente GR, quello che ho appena letto, c'erano molte notizie di violenza. Contemporaneamente è la mamma di una preadolescente, di una figlia femmina che sta crescendo, e vorrei proprio chiederle quanto i due lati della stessa persona, la giornalista che parla di violenza, la mamma che deve proteggere una figlia, a farla crescere, in qualche modo vanno in cortocircuito di fronte alle notizie che per esempio ho appena comunicato. Devo dire di no, perché come per i dottori si cerca di tenere un distacco dalle cose, insomma cerco sempre di tenere distaccate le due cose. Quando do le notizie su questi argomenti cerco, come i miei colleghi, di non dare notizie raccapriccianti, di non enfatizzarle troppo, di non creare allarmismo, perché questo è molto negativo, soprattutto perché spesso questo può creare anche comportamenti di emulazione, quindi non si può non parlarne, però bisogna cercare appunto di usare un'estrema delicatezza nel trattare queste notizie, la stessa delicatezza che secondo me bisogna avere quando si parla di queste cose con i propri figli, le proprie figlie nello specifico, per evitare proprio di creare panico o di renderle troppo insicure di fronte a comunque una situazione abbastanza difficile. Lo chiedo a te e invito anche i nostri ascoltatori da casa. Una mamma che ci ha chiamato da Luca diceva: ma le mie figlie sottovalutano un po' il problema. Aveva proposto dei corsi anche di difesa personale, le ragazzine dicevano: ma no, che problema c'è, stiamo attente. Tua figlia come sta vivendo in questo periodo in cui sui giornali, in TV si parla, comunque la violenza è diventata un tema quotidiano, sta cambiando, ha paura, è più preoccupata oppure la vive normalmente? Premetto che ha solo 12 anni e quindi ancora l'argomento la sfiora soltanto. Peraltro, sempre con molta delicatezza, cerco di non farle sentire una pressione, ma comunque la accompagno sempre, ancora non la lascio. Non la mollo molto. 824 0024, Mimma da Ravenna e poi Stefania da Prato. Mimma, buongiorno e benvenuta. Allora, io, come dicevo prima alla collega, ho due figli, sì. Una ragazza di 13 anni e un ragazzo di 18. Sì. Io credo che innanzitutto bisogna investire molto nel sistema educativo in generale. Certo. Perché è inutile creare falsi allarmismi, perché molte volte la violenza nasce in casa. Sì, questo l'abbiamo detto, Mimma. Ecco, ma lei nello specifico cosa fa? Cosa dice, allora, ai suoi ragazzi? Io consiglio consiglio, suggerisco, quando ci sono le notizie ne parliamo, cerchiamo di parlarne senza troppo allarmismo, perché non è, io credo che i ragazzi, e insegno anche ai miei studenti, dico che bisogna divertirsi con la mente lucida, quindi è inutile abusare di sostanze stupefacenti che poi dopo ti fanno commettere azioni che il giorno dopo non ricordi o di cui poi ti pentiresti amaramente. Ecco. Quindi Mimma, investire nell'educazione, lei dice, nell'educazione, sì, anche nei ragazzi generale, perché molte volte i ragazzi sono anche un po' superficiali e quindi credono che a loro non può accadere. Certo. Dice, mamma, tanto era un extracomunitario, era questo, era quello, ma non è così, perché se andiamo a guardare bene fino in fondo ci rendiamo conto che sentiamo anche dei casi di cronaca che sono chi ha i pedofili nella accade spesso che sono persone molto vicine ai ragazzini, la cronaca di questi giorni certo lo dimostra questa. Grazie Mimma, volevo dare la parola a Stefania che ci chiama da Prato. Grazie Mimma. Stefania, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Senta, sì, io volevo dire che secondo me una cosa che è molto negativa sono l'apertura delle discoteche, che aprono molto tardi e questi ragazzi devono aspettare l'una, mezzanotte e mezzo per entrare, per cui nel tempo che escono di casa, non so, le 9, le 10, devono arrivare a quest'ora e di conseguenza vanno a bere al pub. Vanno a bere al pub, poi vanno in un altro locale, a ribere. Insomma, per arrivare a quell'ora arrivano già sballati. E questo, Stefania, secondo lei è un po' un fattore di rischio? Anzi, un fattore di rischio molto importante anche sul fronte della violenza. Stefania, passerei la parola ad Alberto Pellai, perché Alberto, questo il discorso dell'alcol, degli stupefacenti, delle droghe, torna molto in questa trasmissione in cui parliamo di violenza. Vorrei contestualizzarlo per mandare un messaggio, abbiamo un paio di minuti. Ma direi che chiaramente tutto torna, nel senso che quando un figlio esce deve uscire in una condizione che è di sicurezza. Tutto quello che hanno raccontato le nostre ascoltatrici aumenta il potenziale di rischio. Allora noi possiamo fare due cose come genitori: verificare a quanto rischio si espongono, però questo non lo sapremo mai certamente perché non siamo lì. La seconda cosa invece è verificare quali sono le condizioni di sicurezza con cui si muovono, per esempio insieme al loro gruppo, e in questo senso abbiamo molto potere. Intanto sappiamo a che ora escono, dovremmo sapere a che ora devono rientrare, con chi sono. L'altro aspetto è quello che quando si muovono in gruppo, il gruppo dovrebbe avere dei comportamenti prevedibili. I comportamenti sono il risultato dell'educazione e della formazione che ogni membro del gruppo ha. Allora hanno ragione anche la professoressa Romito e Adriana Fracchia, cioè il lavoro che deve essere fatto non solo con le ragazze ma anche con i ragazzi è come pensano, come vedono, come vivono la relazione per esempio tra maschi e femmine, anche quando diventa affettiva, anche quando si connota sessualmente, perché paradossalmente potremmo altrimenti trovarci con un maschio del gruppo che in una discoteca con la sua ragazza che balla e che viene avvicinata da un altro, l'aspetta fuori e con l'idea di proteggerla pugnala o dà un pugno a quello che l'ha molestata. Certo. Non è questo il concetto di sicurezza. Assolutamente. Alberto, noi torneremo a parlarne, che saluto anche la collega amica Adriana Fracchia. Ricambio il saluto. Grazie. E saluto tutti gli ascoltatori. Torna a trovarci e noi ci sentiamo lunedì con Essere Benessere, mentre l'appuntamento con noi genitori torna sabato prossimo con Alberto Pellai in studio. Buona giornata.